La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisti, eccoci qui a uno degli ultimi weekend cinematografici, anzi forse l'ultimo weekend cinematografico con qualcosa di saporito che bolle in pentola, poi bisognerà davvero penare durante il mese di agosto prima che le cose riprendano dopo Ferragosto, ma insomma andiamo con ordine, un weekend con almeno un paio di film che ci portano sul grande schermo attori ai quali siamo molto affezionati, da Cameron Diaz a Robert Downey Jr. E via dicendo, e allora noi cominciamo subito con il riepilogare i contenuti principali di questa puntata nei nostri titoli di testa. Ti arriva un pacco anonimo con una scatola ed un pulsante. Se lo schiacci, qualcuno muore e tu diventi ricco. È il dilemma etico alla base di The Box, il film con Cameron Diaz nei cinema italiani da questo fine settimana. Un giornalista disincantato sulle strade di Los Angeles, un violoncellista senza tetto che suona uno strumento con due sole corde e un'amicizia sempre più profonda che cambia la vita dei due protagonisti. Coppia d'assi per Il solista con Jamie Foxx e Robert Downey Jr. Truppe poco speciali per risolvere i casi più intricati, cui si aggiunge Zoe Saldana di nuovo in action dopo Avatar. È The Losers, tratto dal fumetto omonimo della DC Comics. Un maestro del cinema e un'impresa proibitiva. Dirigere in diretta il film di una delle più grandi opere liriche di tutti i tempi. Marco Bellocchio alle prese con il Rigoletto di Giuseppe Verdi in Mondovisione il 3 e 4 settembre prossimi. Il regista ne parla alla Rosa Purpurea. E cominciamo allora con le novità. The Box è il primo film di cui vogliamo occuparci. Cameron Diaz, James Marsden di fianco a un grande Frank Langella. Questo il cast. E allora The Box è la nostra proposta principale per questo weekend al cinema. Tutto comincia nel cuore della notte. Cosa hai sentito? Suonano alla porta. Sei sicuro? Ma che ore sono? Le sei meno un quarto. Che cos'è? Qualcuno ha lasciato una scatola. Chi? Non ne ho idea, ho visto solo una macchina che si allontanava. Non era ancora l'alba in Virginia, 1976. Arthur Lewis lavora per la NASA, sua moglie Norma è un'insegnante. Con gli occhi pieni di sonno hanno appena sceso le scale della loro villetta unifamiliare e hanno trovato una scatola di legno con sopra un bel pulsante rosso vivo. Di fianco un biglietto: mi metterò in contatto con voi alle 5 in punto nel pomeriggio. Incuriositi e anche un po' inquietati dall'episodio, i coniugi Lewis cominciano una nuova giornata col lavoro che incombe, il figlio Walter che cresce. Ma il pensiero è sempre lì, a quella scatola. Che sarà mai? La soluzione alle 5 del pomeriggio in punto, quando un distinto e attempato signore suona il campanello. È Arlington Stewart, volto orribilmente deturpato, ma una plomb davvero gentleman. In questa piccola busta c'è una chiave. Le faccio vedere. Questa chiave apre la cupola di vetro del meccanismo a pulsante. Se lei premerà quel pulsante, allora accadranno due semplici cose. La prima, una persona in qualche parte del mondo, una persona che lei non conosce, morirà. La seconda, lei riceverà in pagamento la somma di $1,000,000. Questo è il dilemma. Inizialmente Norma e Arthur pensano a uno scherzo di un buon tempone, certo ben orchestrato, ma quel giorno succedono anche alcune cose nella vita dei due protagonisti. Per esempio che Arthur viene negata la possibilità di diventare astronauta. Cose di tutti i giorni, piccole grandi delusioni cui tutti andiamo incontro. Ma come reagiremmo a quelle delusioni se avessimo a disposizione un pulsante da premere per ricevere $1,000,000 e farla finita con tutti i problemi, togliendo certo una vita a una persona che nemmeno conosciamo in chissà quale angolo del mondo. Come si supera il test? Non è abbastanza ovvio. Basta non premere il pulsante. Se la maggior parte di voi non lo farà, il test sarà concluso. Ma ci saranno altri test in futuro. Fermiamo qui la nostra narrazione, ma vi diciamo che qualunque sia la scelta dei coniugi Lewis, quello non sarà che l'inizio del film, che diventa un'altra cosa, sospesa fra thriller, fantascienza e racconto morale. Tratto da un racconto breve di Richard Mason, maestro del paranormale, cui si devono le idee di molti episodi della mitica serie I confini della realtà, anche questo, tra l'altro, questo racconto diventò uno di quegli episodi, The Box è diretto da Richard Kelly, giovane regista americano che, dopo l'esordio fulminante con Donnie Darko, era scivolato sull'incompiuto Southland Tales, ma si riprende benissimo con questo The Box, che miscela ingredienti e contesto mettendo a disposizione di tre grandi attori: brava la Diaz in versione drammatica, ottimo Marsden ma superlativo Frank Langella, il Nixon nello splendido film di Ron Howard di un paio di stagioni fa, dicevo, mettendo a disposizione di questi attori un materiale di grande interesse. Innanzitutto lo sfondo, il contesto, quell'America degli anni 70 che guardava ancora con fiducia allo spazio, ma che Mason rivela invasa dal di dentro da forze aliene, insomma, in un certo senso, parafrasando una celebre canzone, gli altri siamo noi. Poi, apologo morale sulla natura umana, incapace di dire no alla ricchezza facile, ma schiantata poi dal rimorso quando le conseguenze di quella scelta si manifestano in tutta la loro drammaticità. E su questo sentiamo il parere di Cameron Diaz. It's very relevant to this day and age because we have made a society that's really based on. È un tema molto rilevante in quest'epoca storica perché abbiamo creato una società basata principalmente sul benessere economico, più che sulla nostra salute spirituale. Ed è per questo che le persone dicono: oh, io l'avrei premuto quel bottone. Insomma, non ci pensano nemmeno su. Credo che le persone, per così dire, premano il bottone ogni giorno. Guardiamo alla crisi economica attuale. La gente che l'ha provocata ha fatto questo tipo di ragionamento. Beh, posso avere tutto ciò che voglio, anche se non è il metodo giusto, ma tanto lo stanno facendo tutti e lo faccio anch'io. Prendiamo certe decisioni pensando che non ne pagheremo mai le conseguenze, ma la verità è che prima o poi arriva sempre il conto da pagare, perché nulla ti viene dato gratis. E l'attrice rivela anche un'insospettabile passione per la fantascienza. I love sci-fi, yeah, I do. I grew up with it. My father was a big sci-fi. Mio padre leggeva moltissimi libri di questo genere e anche io mi ci sono appassionata. Credo che la fantascienza sia una strada interessante per riflettere sulla nostra esistenza. Pensiamo a quando nelle puntate di Star Trek le persone si parlavano attraverso quei piccoli oggetti senza fili e noi pensavamo che fosse impossibile che qualcuno comunicasse servendosi di un aggeggio senza cavi a migliaia di chilometri di distanza. Quella era fantascienza. Oggi noi lo facciamo. Nella fantascienza troviamo le fondamenta del nostro futuro. È una specie di sguardo su ciò che il mondo potrà diventare nei prossimi anni o secoli e che cosa vi possiamo costruire. Bellissima questa descrizione della fantascienza secondo Cameron Diaz. La regia di Kelly è ricca delle suggestioni dei film precedenti, un approccio filosofico e spirituale alla natura umana, ma lineare nelle scelte estetiche, probabilmente il modo migliore per gestire la molta carne al fuoco, l'insieme di testi e sottotesti del film. Così, nonostante non manchino difetti, The Box avvince sia lo spettatore interessato alla trama principale, cosa succederà schiacciando quel bottone, sia quello che vuol vederla un po' più alla larga, con i dilemmi etici dell'uomo animale, sia chi aspetta il colpo di scena fantascientifico, risultando una delle pellicole più originali di questo torrido ma asfittico scorcio di stagione. Seconda parte della Rosa Purpurea, parliamo dell'altra novità più attesa di questo weekend, perché quando si mettono insieme nello stesso film Mr. Iron Man e Sherlock Holmes, al secolo Robert Downey Jr. e Jamie Foxx, il nuovo asso del cinema black, Collateral e Ray nel suo curriculum, è chiaro che il film nutre ambizioni alte. Dirige Joe Wright, il regista inglese di Espiazione, Orgoglio e Pregiudizio, che esordisce a Hollywood con questa storia vera d'amicizia maschile fra un giornalista del Los Angeles Times è un senza tetto schizofrenico con un enorme talento musicale. Io non chiedo compassione. No, questo via. Come ti chiami? Nathaniel Anthony Hirst Jr. Hai solo due corde. Ho avuto qualche difficoltà. Steve Lopez, LA Times. Nathaniel Hirst ha frequentato la vostra scuola? Mai visto un ragazzo con più talento di lui. Voglio scrivere un pezzo su Nathaniel. Quando hanno saputo che suonavi con due sole corde, hanno pensato che ti servisse qualcosa di meglio. Non posso pagarlo. È un regalo. L'avete sentito, l'incontro fra il giornalista Steve Lopez, Downey Jr., e l'homeless Nathaniel Ayers, capace di suonare un violino con due sole corde, Jamie Foxx. Avviene una mattina in una piazza di Skid Row, uno dei quartieri più degradati di Los Angeles. Steve è a caccia di una storia per la sua rubrica di prima pagina sul Los Angeles Times. Capisce subito che quell'uomo che pronuncia frasi sconnesse, tipo «è bello suonare qui perché puoi farti applaudire dai piccioni mentre prendono il volo», può diventare quella storia, e lo diventa. Steve si informa, Nathaniel era un promettente studente di violoncello alla Juilliard School, ma l'insorgere dei primi disturbi psichici ne aveva frenato l'ascesa. Ed eccolo finito per strada, nel caos delle auto e della polvere, l'unico posto in cui le voci non lo perseguitano. Steve riceve da una lettrice un violoncello da donare a Nathaniel. Gli chiede però in cambio di andarlo a suonare al LAMP, un ricovero per barboni di Los Angeles, un tentativo per farlo rientrare in qualcosa che somiglia a una casa, mentre lui, Steve, per Nathaniel, comincia a somigliare a una famiglia. Che cos'ha? Schizofrenia? Tu piloti quell'aereo? Da qui non posso. Non so sempre bene quello che mi succede. Lui non ha idea di quello che dice. Non voglio tutta la responsabilità. Oh, certo, evita le responsabilità. È malato, deve andare in un ospedale psichiatrico. Non farmi rinchiudere. Tu non... Nathaniel! I medicinali non hanno avuto effetto. Una cosa sola può aiutare Nathaniel. Un amico. Ma essere amici è qualcosa di più della reciproca utilità che muoveva il rapporto fra i due fino a quel punto. Uno a caccia di una storia da raccontare, l'altro finalmente in grado di suonare di nuovo il suo strumento e di dormire con un tetto sopra la testa. Un'amicizia chiede dedizione e Steve non è sicuro di farcela e Nathaniel non è sicuro di volerla. Un anno fa ho conosciuto un uomo in disgrazia, ma con un grande dono, e ho creduto di poterlo aiutare. Passa fuori di testa! Quello che trasmette è coraggio. È umiltà. Credi che starò di nuovo bene? E la forza del suo cuore. Mio Dio, c'è qualcosa di più alto là fuori! Essere suo amico ti fa sentire a casa. Questo è Il Solista. C'erano premesse importanti per questo film, tanto che alla sua uscita americana un anno fa se n'era parlato come uno dei candidati agli Oscar 2009, poi una trentina di milioni di dollari di incasso, poca roba, e l'oblio. Ora l'uscita italiana è stata inoltrata in meno di 100 sale, il che quantomeno insospettisce, svista della distribuzione o qualcosa non funziona davvero nel film. Personalmente sono di questo secondo parere ed è un peccato. Cosa non funziona? Comincerei con l'alchimia fra i protagonisti. Non si sente il feeling giusto fra i due, è come se parlassero due linguaggi diversi. In fondo, citando il titolo, sono due solisti, Downey Jr. e Fox, ma mentre Downey ha dimostrato spesso di sapersi mettere a disposizione del cast di film un po' più corali, Fox è dotato di una maschera recitativa vagamente inespressiva, da duro che si macera dentro, che va bene per Collateral o per Il reggente Giustizia privata, ma che non regala abbastanza emozioni a un personaggio come quello di Nathaniel Ayers, meglio nella versione originale, dove regalava qualcosa con una vocina stridula, ma noi vediamo i film doppiati. Poi la regia. Alle prese con Hollywood, Joe Wright è tradito da ansia da prestazione. Sembra che voglia dire «Ehi, sono un regista inglese, guardate quanto rendo europeo il vostro film!» E via con momenti lisergici, riprese dall'aereo, cose che insomma appesantiscono il film, i cui 100 minuti sembrano almeno una ventina in più, e allontanano dalla storia, alla quale mancano anche personaggi laterali degni di nota. Insomma, il film non decolla ed è un peccato, come dicevo, perché ci si poteva aspettare di più da un cast così e una storia che entra nel vivo del problema della solitudine per i 90.000 senza tetto di Los Angeles, ma anche per tutti gli uomini soli che una casa ce l'hanno ma hanno perso il centro della loro anima. Pensate a cosa hanno fatto in passato su alchimie simili Terry Gilliam con Il re pescatore, Scott Hicks con Shine, ma anche più recentemente Thomas McCarthy con quel capolavoro che era L'ospite inatteso. La difesa del film, ovviamente, al cast, Robert Downey Jr. In questo film vengono trattati dei temi determinanti, non tanto quello della fame improvvisa, c'è molto di più in questa storia. Io penso che il bello di questo film risieda nella coscienza collettiva su certi temi. È una storia vera, è una grande storia e ci è piaciuta molto, davvero. E sentiamo invece Jamie Foxx. Qualcuno mi ha chiesto se fosse davvero possibile curare i senzatetto, riportarli nella società. Ma non è questo il significato del film, piuttosto la storia vuol far luce su quanto impegno ci voglia da parte nostra come esseri umani e mostrare come a Nathaniel, che prima era un senzatetto nel quartiere di Skid Row, all'improvviso capitino tutte queste belle cose. Abbiamo parlato de Il Solista, seconda proposta di questo weekend al cinema. Ora ci tocca molto volentieri aprire invece la prima finestra sulla DVD Game di questa settimana. Giochiamo ancora con un Blu-ray. Questa settimana non sono parole, sono suoni, sono canzoni. Sentite. E allora avete sentito questo che è una vera e propria icona sonora di un film, ovviamente di un musical, perché di questo si tratta. Se avete già indovinato di quale film e di quale musical si tratta, il nostro indirizzo di posta elettronica è larosapurpurea@radio24.it. Più tardi un altro paio di possibilità per vincere il Blu-ray di questo film. E siamo arrivati adesso a un'altra proposta di questo weekend, fra il dramma etico fantascientifico di The Box e quello tutto umano invece del Solista. Va a finire che ci si diverte soprattutto con The Losers, un film d'azione abbastanza svitato, al cui racconto chiamiamo il nostro Boris Sollazzo, che è in collegamento. Ciao Boris. Caro Franco, hai proprio ragione, ci si diverte parecchio con The Losers. Volendo fare una piccola polemica, ci si diverte molto di più che con un film analogo, ovvero A-Team, ecco. In cui devo dire ci si diverte decisamente tocchi un tasto assolutamente dolente, e del resto gli incassi alla fine l'hanno raccontata questa cosa. Andiamo a sentire una quarantina di secondi da The Losers, poi ne parliamo con il nostro Boris Sollazzo. Spero solo che non ci notino dentro questa macchina giallo banana. Stai dicendo che ti imbarazza viaggiare su un modello americano classico? Li vedi? Bersaglio diretto a sud. CIA. NSA. Forze speciali. Spara. Oh oh oh oh! Noi non siamo loro. Noi siamo gli sfigati. Ragazze! Ma anche i migliori agenti. Siamo dentro e la folla impazzisce. Fermo! Clay, abbiamo un problemino qui. Vengono traditi. Parla Max. Cambio di rotta, gli sfigati sanno troppo. Uccideteli. Che bei tempi. Si sente già la matrice dell'ironia, del divertimento in questo film tratto da un fumetto della DC Comics. Chi sono questi Losers, Boris? Appunto, come è un A-Team di serie B, quindi un B-Team, volendo fare una battuta, perché appunto Sylvan White riprende questo bel fumetto della DC Comics portando questo gruppo di mercenari, una squadra speciale, a dover essere creduti morti perché il loro capo li ha traditi sparando all'elicottero dove sono, e l'elicottero era pieno di bambini, quindi c'è la vendetta morale oltre che la vendetta personale. Lì era Bradley Cooper nell'A-Team ad essere il leader, qui è un Jeffrey Dean Morgan, mai così tanto Robert Downey Jr. mischiato a Javier Bardem, e questa chiaramente è una notazione soprattutto per le donne che vedranno il film. E per gli uomini invece c'è Zoe Saldana. Assolutamente, Avatar, e adesso questa sensualissima mercenaria anche lei alla ricerca di una vendetta molto particolare, familiare, personale, bravissima, sinuosa, anche più che in Avatar, devo dire, se possibile. E allora, promosso questo The Losers, che rischia di essere, potrebbe essere, una delle sorprese da multiplex di questa fase della stagione? Assolutamente sì, sono d'accordo, potrebbe essere la notte da leoni di quest'anno. La rosa purpurea. Le drammatiche note del preludio di Rigoletto di Giuseppe Verdi, note immortali, universali, conosciute a tutte le latitudini. Perché alla Rosa Purpurea? Perché Rigoletto diventa anche un film e con una mano cinematografica d'eccezione, quella di Marco Bellocchio. Era il 1992 quando con La Tosca da Roma si inaugurò questa iniziativa faticosa, particolare, eccezionale, che si intitola La Via della Musica. Prodotta da Andrea Anderman, cioè l'idea quella di fare un'opera dal vivo ripresa in diretta mondovisione nei luoghi in cui gli autori l'avevano creata, inventata, ambientata, e così Tosca Roma nel 2000 Traviata a Parigi, il tutto tra l'altro con una coerenza temporale straordinaria, ovvero le scene si svolgevano da una sera all'altra sera nell'arco di 24 ore, cambiando location, andando in campagna laddove bisognava andare in campagna, nel castello laddove bisognava andare nel castello, e tutto questo ripreso in diretta con una mano cinematografica importante alle spalle. Ebbene, nel 2010 è la volta di Rigoletto, 4 e 5 settembre, sono le due date in cui Mantova, lo sfondo dell'opera di Giuseppe Verdi, diventerà il centro audiovisivo del mondo. Pensate, 138 paesi collegati in mondovisione, 120 dei quali daranno l'opera in diretta appunto la sera del 4 settembre, verso le 14 del pomeriggio del 5, della domenica, e poi ancora la sera del 5. A dirigere tutto questo, a dirigere le immagini, ci sarà Marco Bellocchio, a far diventare film quest'opera dal vivo in diretta mondovisione e a colorarla e a disegnarla con le sue fantastiche luci ci sarà Vittorio Storaro. Ecco perché dicevamo, più cinema di così davvero non si può. Ma come fa un grande regista cinematografico, abituato però ai tempi del cinema, a fare cinema in diretta, potremmo dire, in questo senso? Lo abbiamo chiesto a Marco Bellocchio. Marco Bellocchio, un film questa volta senza tanti elementi dell'arte della regia, non può contare su degli stop and go, non può contare su un montaggio dopo, non può contare su una serie di cose. Come fa un regista a immaginare scene, a creare immagini, quando tutto corre in diretta sotto i suoi occhi? Beh, più che altro si cerca di, come dicevo prima, si cerca di inserirsi in una costruzione già... che è indistruttibile, che è immodificabile in un certo senso. Allora lavorare per esempio con i cantanti, decifrare il testo, spessissimo chi ascolta la musica, io stesso non manco capisce le parole o trascura certe, perché Rigoletto è un'opera che è drammaturgicamente estremamente perfetta, anche i dialoghi, anche i contrasti tra i vari personaggi, ecco. Lavorare su quello, lavorare sul... Io avevo già fatto un Rigoletto a teatro. La grande differenza, sia pure con i limiti, è il mio sguardo, cioè che io posso inserirmi guardando, modificando, muovendo anche nei limiti del compatibile i vari personaggi. Come ho detto prima, io cercherò di lavorare su quello, insomma, ma non per forza per dire mettere il mio marchio, no, proprio per dare delle vibrazioni nuove, ecco, con la telecamera, cioè sostanzialmente attraverso comunque un'immagine che è in diretta, ma è comunque elaborata da noi, ecco. Ecco, Rigoletto è una storia che, se dovessimo definirla con un genere cinematografico, è fra il noir e il thriller, un pochino, se vogliamo, no? Ecco, cercherà di rendere queste tinte anche con l'aiuto di Storaro, per quanto possibile ovviamente, in questa storia. Ma, ripeto, è un melodramma perfetto, raro, insomma. Poi è un melodramma che è veloce, piuttosto breve, non ha tempi morti. Naturalmente è chiaro che poi... che immagino lo spettatore che lo guarderà in televisione, lì ad un certo punto, come a teatro, saranno i cantanti che prendono il dominio e quindi la grandezza, la bellezza, l'emozione, le lacrime dipenderanno moltissimo dall'interpretazione, che spero straordinaria e sorprendente, di Placido Domingo. Ecco, un'ultima cosa le chiedo, è un artificio tecnico, per esempio, scena finale, locanda di sparafucile, tutto si svolge in una notte di tregenda, tempesta, pioggia, persino alla Scala fanno piovere. Lì aspettate Giove Pluvio o avrete anche voi degli accorgimenti? No, anzi, speriamo che non piova, perché se piove è un guaio, insomma. No, lì lavoriamo sempre su un filo di rasoio, è chiaro, perché da una parte c'è una bellezza, quella di Mantova, che è una bellezza incombente. Io non credo che sia il rischio cartolina, però certamente hai delle bellezze che prescindono. Noi entreremo con la nostra storia, con i nostri cantanti, e credo, speriamo di dargli un palpito nuovo, ecco. Però ripeto, sarei molto più preoccupato se avessi un palcoscenico fisso. Dal momento che ci può muovere dentro, è un po' il mio elemento, ecco, e speriamo bene. Grazie, prego. Grazie mille. Marco Bellocchio, La Rosa Purpurea, a raccontare questa sua sfida, il Rigoletto, fare cinema in diretta, fare grande, grande cultura. Io non ho ancora detto dove potrete vederlo, 4 e 5 settembre, diretta Mondovisione, ma in Italia ovviamente sui canali Rai. Tra l'altro lo ha citato anche Bellocchio, esordio nel ruolo di Rigoletto, ruolo di baritono per Placido Domingo, insomma, che è un'altra grande presenza, dirige Zubin Mehta, un evento di livello davvero mondiale. Rimaniamo alla musica, rimaniamo all'opera, fra virgolette, anche se il genere più moderno, che è appunto il musical, con la seconda traccia del Divo di Game di oggi. Cedi, lascia che lei vada via, non ha più pace, lui parla della pace con me. È tutto vano. Io l'amo, sarà importante, io l'amo, un gesto umano. Il mondo non fu umano con me. E avete sentito, qui si canta in italiano, La Rosa Purpurea, @radio24.it, se avete indovinato di quale film, di quale musical cinematografico si tratti, per vincere il Blu-ray di questo film, più tardi ci sarà un'altra possibilità. E adesso cominciamo a dare un'occhiata oltreoceano, come facciamo spesso, anzi sempre, qui alla Rosa Purpurea, con le anticipazioni di Trailer USA, la nostra rubrica che ogni settimana vi fa ascoltare in anteprima i suoni originali dei trailer, dei nuovi film americani, ben prima che escano spesso in America, sicuramente in Italia. E allora la nostra vetrina oggi si ferma su un film d'autore, parliamo infatti di Somewhere, il nuovo film attesissimo di Sofia Coppola, che dopo Marie Antoinette torna alle atmosfere di Lost in Translation, abbandonati quindi personaggi storici, costumi sfarzosi. Sofia Coppola, lontana peraltro dal grande schermo da ben 4 anni, sembra voler tornare nettamente al minimalismo e all'intimismo che ha caratterizzato i film con Scarlett Johansson e Bill Murray. Il film, questo, Somewhere, vede protagonisti Steven Dorff, Elle Fanning, la sorellina di Dakota Fanning, Michelle Monaghan e Benicio del Toro. Ma passiamo subito la parola alla nostra Micaela Bellisario, che ci descrive come sempre la trama del film. Ciao Micaela. Sì, ciao Franco. Diciamo subito che Somewhere, proprio come Lost in Translation, ruota unicamente intorno a due soli personaggi. Protagonista di questa storia è l'attore Stephen Dorff, nel ruolo di Johnny Marco, un famoso attore maledetto che vive una vita di eccessi al leggendario Chateau Marmont di Hollywood, un hotel frequentato dai divi. E tutto cambia un giorno quando riceve la visita inaspettata della figlia undicenne, che lo porterà a riscoprire se stesso al di fuori del mondo artificiale della celebrità, dello star system. Sentiamo il loro primo incontro. Hi Dad. Ecco io. Can decisions shape your life? You be aware of five above. Il film, avrete capito da questo spezzone di trailer, è molto poetico. Per chi ama l'estetica cinematografica di Sofia Coppola, in Somewhere noterà il suo tocco distintivo. Nel film ci sono lunghe descrizioni visive, dialoghi ridotti ai minimi termini e soprattutto molte situazioni. C'è anche un omaggio alla nostra TV. A un certo punto, infatti, il protagonista riceve il Gran Premio Internazionale della TV, i nostri Oscar televisivi. Qui vi facciamo sentire una telefonata con la ex moglie. Sullo sfondo sentirete la musica dei Phoenix, che è davvero, come dire, struggente nel film. I Phoenix sono un gruppo francese, e tanto per metterci un po' di gossip dentro, la Coppola ha appena avuto la seconda figlia dal cantante della band, Thomas Mars. Seven months ago to school. I need take Cleo. Do you know the story? When are you coming back? I don't know. Seven ways to get ahead. E vi anticipiamo subito che del film sentirete parlare molto molto presto, anche qui ovviamente alla Rosa Purpurea. In Italia sarà presentato infatti in anteprima mondiale al Festival di Venezia, la Mostra del Cinema di Venezia. Il passaggio è previsto il 3 settembre, Mostra del Cinema che vi ricordo comincia l'1 settembre per concludersi l'11 con presidente di giuria Quentin Tarantino. Negli Stati Uniti l'uscita è prevista per il 20 dicembre, quindi insomma una volta tanto lo vedremo prima qui in Italia. Grazie a Michela Bellisario. Ciao Franco, alla prossima settimana. Ebbene, allora, questo era Trailer USA di questa settimana, Somewhere di Sofia Coppola. Diamo un'occhiata a come sono andate le cose in classifica al box office italiano e anche uno sguardo a quello americano, perché ci sono novità importanti, nello scorso fine settimana. Toy Story è primo in classifica, Toy Story 3, La Grande Fuga, è andato molto bene durante la settimana, nei giorni infrasettimanali, dopo un primo weekend non lanciatissimo, adesso è arrivato alla fine della scorsa settimana a 7 milioni e mezzo di incasso. Vediamo come lavorerà ancora questo weekend e probabilmente anche il prossimo, poi la gente andrà a gioco forza in vacanza, ma insomma è un film che sta lavorando molto sull'infrasettimanale, come si conviene ai film d'autore in un certo senso. Secondo posto tiene botta anche Eclipse, il terzo episodio della saga di Twilight, ormai è arrivato vicino ai 14 milioni di incasso globale, ma con una settimana di vantaggio rispetto a Toy Story. E poi terzo posto per Solomon Kane, quarto per Predators, ma con distanze siderali, incassi che finiscono, si smantellano di volta in volta. Pensate che al quinto posto c'è un film che ha incassato nel weekend 81.000 euro, insomma se ci mettiamo noi e voi a produrre un film forse facciamo gli stessi soldi. Flop di questa parte della stagione A-Team, 2 milioni e 2, sentivate prima anche la critica di Boris Sollazzo, mentre torna fuori alcuni dei bei film di questa stagione, per esempio al settimo posto Il segreto dei suoi occhi, premio Oscar per il miglior film straniero dell'argentino Juan José Campanella, che trovando ancora qualche spazio raggranella ancora qualche soldo nella classifica. Ovviamente fin dalle ambizioni infinitamente minori non esiste un incasso tipo, è chiaro che 1 milione di euro incassati dal film Il segreto dei suoi occhi vale come 10 milioni incassati da Twilight, bisogna sempre fare ovviamente le proporzioni. Dicevo, un occhio anche a quello che è accaduto in America, perché è partito Inception, il nuovo film di Chris Nolan, attesissimo, un film che già la critica sottolinea come straordinario. Ebbene, primo weekend 60 milioni di dollari incassati, subito una partenza monster per questo film, mentre il film Disney L'apprendista stregone negli Stati Uniti terzo con un totale di 24 milioni, vedremo come lavorerà nel corso del prosieguo del suo sfruttamento commerciale. La parte conclusiva del nostro programma, come sempre, viene in casa vostra per darvi dei consigli per le visioni domestiche di cinema, i recuperi, le registrazioni, quello che non dobbiamo farci sfuggire dai palinsesti delle TV. E come sempre con questo cominciamo, ovvero con gli amici del settimanale Film TV, che ogni settimana ci segnalano un film in chiaro e rigorosamente gratis da vedere, recuperare o rivedere in televisione la settimana successiva. Questa settimana siamo caduti sul morbido e sul francese con un grande nome del cinema transalpino, ma facciamoci raccontare tutto da Claudio Bartolini. Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Il film che segnaliamo oggi dalla redazione di Film TV è L'uomo del treno di Patrice Leconte, che andrà in onda lunedì 26 luglio su Rai Movie, quindi parliamo di digitale terrestre free, alle 22.40, seconda serata. Il film è un tipico prodotto di genere francese, che quindi mescola ingredienti provenienti da territori differenti, quindi poliziesco, il classico polar alla francese, equi-western e un tono ironico che somiglia tanto a quello della commedia. Gli interpreti principali sono Johnny Hallyday e Jean Rochefort, che sono volti noti alla cinematografia francese, e grazie a questo lavoro riescono ad andare a ottenere una piccola ribalta anche al di fuori dei confini nazionali. Ecco, la trama, non vi svegliamo ovviamente il finale, ma anticipiamo che non è uno dei tipici polizieschi, tutto sparatorie, inseguimenti e misteri, bensì un lavoro di intensità espressiva ed emotiva effettuato sui personaggi, che sono strutturati a 360 gradi e di conseguenza tra una battuta e un'indagine riescono poi a coinvolgere lo spettatore per tutti i 90 minuti. È tutto, grazie e un saluto dalla redazione di FinTV, a risentirci settimana prossima. Ebbene, grazie a Claudio Bartolini. Ricordiamo ancora l'appuntamento lunedì su Rai Movie, digitale terrestre in chiaro, alle 22.40, L'uomo del treno di Patrice Leconte. Siamo alla terza e conclusiva traccia per provare ad indovinare il Blu-ray game di oggi. Questo era l'ultimo suggerimento cantato di questo musical, La Rosa Purpurea @radio24.it, il più bravo e veloce del sabato e della domenica riceveranno il Blu-ray di questo film, di questo musical. Noi, come sempre, invece facciamo un salto indietro di 7 giorni e riascoltiamo una delle tracce del film con cui avevamo giocato la settimana scorsa. Amici cari, io non voglio morire. E non morirò finché l'azienda proseguirà nello spirito con cui l'ho creata. La fortuna della nostra famiglia è costruita sulla fabbrica. Abbiamo impresso il nostro nome nella storia dell'intera nazione. L'azienda è nata ricchi e ricchi rimarrà per sempre. Si trattava di Io sono l'amore, uno dei film più belli della scorsa stagione cinematografica, per quanto riguarda almeno il mio parere, presentato a Venezia lo scorso anno, uscito con qualche difficoltà nell'inizio del 2010, film però di una bellezza estetica, di un ragionamento intorno all'Italia, alle grandi famiglie industriali, con una Milano come raramente era stata filmata, davvero un grande lavoro, questo Io sono l'amore, Tilda Swinton protagonista, un film proprio di proiezione internazionale. Io personalmente gli avrei fatto rappresentare l'Italia all'Oscar quest'anno, ma non sono io che decido. E allora, hanno indovinato, avevamo più copie del solito e siamo felici di questo, quindi sono ben 4 i vincitori. Hanno indovinato per primi e riceveranno il film Giancarlo Merati di Somma Lombardo, provincia di Varese, Livia Maria Orofino di Vicenza, Pilar Saavedra di Roma e soprattutto Serafina Santolini. Liquido, perché dico soprattutto? Perché questa ascoltatrice ci ha scritto da Cracovia in Polonia e quindi riceverà il film in Polonia. Evidentemente ascolta la trasmissione in streaming oppure grazie al podcast dal lunedì in poi, lo ricordo sempre, non lo ricordo mai abbastanza, anche sul sito di Radio 24, www.radio24.it, la trasmissione è disponibile dal lunedì in poi, potete ascoltarla quando volete. Allora, questo per Io sono l'amore, noi invece sentiamo anche quali sono i contenuti della produzione in DVD dal nostro recensore Claudio Pofi. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora, l'uscita del DVD di Dolmen è di ottima qualità, propone ben 2 tracce in italiano, stereofonico oppure in Dolby Digital multicanale, ci sono ben 11 interviste a cast e troupe, tra cui segnalo quella a Luca Guadagnino, a Tilda Swinton e anche Alba Rohrwacher, e ben 14 minuti di immagini dal set. E questo allora per quanto riguarda Io sono l'amore di Luca Guadagnino, il DVD game della scorsa settimana. Adesso andiamo alle recensioni invece di questo weekend. Abbiamo parlato durante la nostra trasmissione di cinema d'azione, di action movie con The Losers. Avevamo parlato qualche settimana fa, anzi 2 settimane fa precisamente, di Predator, e il regista di Predator è Nimrod Antal, del quale abbiamo recuperato invece un film precedente che esce proprio in questi giorni in DVD, si intitola Blindato. Ascoltiamo la clip. Abbiamo 51 minuti per nascondere i soldi e farci rapinare. Avanti, andiamo. Forza. Che succede ora? Togliti il giubbotto, dobbiamo fare un lavoro. Non è il momento delle preghiere. Dodge! Muoviti, Hackett. Veloci. Presto. Prendi. I pacchi vanno in queste borse. E le borse dentro il buco. Un furgone portavalori con 42 milioni di dollari a bordo fa gola a molti, persino alle guardie giurate che lavorano per la compagnia che ha l'incarico di trasportarli. Tutti sono d'accordo per simulare una rapina e nascondere il malloppo in un luogo sicuro, ma l'operazione è destinata a fallire in un bagno di sangue. Il regista ungherese Nimrod Amtal, attualmente nelle sale appunto come ricevi tu con l'ultimo Predators, ma anche regista di Vacancy, ci mette del suo nonostante un racconto con pochi colpi di scena. Cast d'eccellenza con volti come Matt Dillon, Larry Fishburne, Jean Reno e Fred Ward. Uscita DVD ma soprattutto Blu-ray per Sony Pictures Home Entertainment, Blu-ray di eccellente qualità video, traccia di TS ad alta risoluzione, in italiano e in inglese, con momenti molto adrenalinici. Come extra sono veramente tanti, segnalo su tutti il commento, produttore e parte del cast e un interessante dietro le quinte. Ci avevano già spaventato qualche anno fa con Rec, Jaume Balagueró e Paco Plaza, premiata ditta dell'horror spagnolo, genere che in Spagna impera davvero. Sono tornati l'anno scorso con Rec 2, si torna nella casa maledetta per avere molta molta paura. Sentiamo. È finita! Possiamo cercare di prelevare dell'altro. Che bella stronzata! L'ha detto lei, doveva essere il sangue originale. È da Medeiros che è partito il contagio. Ed è in lei che risiede il male. Dobbiamo solo trovarla ed estrarre un campione di sangue. È la miglior soluzione. Sì, ma neanche sappiamo se è viva! Non posso più. A Barcellona, una palazzina isolata in seguito alle voci della diffusione di un virus particolarmente aggressivo che trasforma in belve assetate di sangue e che ha colpito numerosi inquilini. Una squadra speciale armata sino ai denti scorta nel palazzo un uomo del governo che si rivelerà essere un prete esorcista alla disperata ricerca del sangue infetto del paziente zero, una bambina indemoniata che diede il via all'infezione. Dagli stessi registi del primo Rec, un fortissimo sequel, ben ritmato, claustrofobico, per quello che nel 2007 si è trasformato in un cult per appassionati dell'horror più grafico. Da media film e cinema arriva il DVD, ma anche il Blu-ray, assolutamente perfetti, soprattutto il Blu-ray che offre ben 3 tracce audio ad alta risoluzione, c'è anche quella originale in spagnolo, tanti gli extra, tra cui segnalo scene estese ed eliminate, ben 2 ore di documentario sulla lavorazione. Grazie Claudio, questo era Rec 2, appuntamento fra 7 giorni per le nostre finestre in DVD. A presto, un saluto. E con Claudio Poffi noi abbiamo concluso la puntata della Rosa Purpura. Appuntamento la prossima settimana, come sempre, il sabato alle 18, la domenica alle 15 per chi ci ascolta in replica, per la nostra ora di cinema qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi.